poi dunque ricordo orridi specchi tacitori orrori solitari ritiri e tombe aliche tra voi porto il mio duolo perché spero da voi quella pietà che indori la indomata la nita vengo speron chiamate vengo specchi traditi alfine d'eco in folto il mio tormento in voi re.